Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Ieri sera a Verona poteva seriamente finire il Milan e con lui il campionato. Invece la vecchia guardia ha stretto i denti, le dentiere verrebbe da dire, no? E adesso tocca alla Juve rispondere stasera con la Lazio. Io penso che ragionevolmente andrà così fino al 13 maggio, che è quanto poi la Juventus si augura dopo il blitz pre-pasquale della Fiorentina a San Siro. Oggi siamo collegati con Roberto Beccantini. Buongiorno Roberto. Buongiorno Gigi, grazie dell'invito. Come te lo immagini sto testa a testa della seconda metà di aprile e poi della prima di maggio? Innanzitutto non l'avevo previsto, confesso, perché la mia griglia collocava la Juventus al sesto posto addirittura. Bisogna riconoscere i propri errori, mentre in prima fila ponevo il Milan. Quindi il Milan ha confermato il pronostico, la Juventus è andata al di là, per cui mi vedo un finale com'è nei voti, com'è nei risultati, com'è nel corpo a corpo. Mancano 6 partite per il Milan, 7 per la Juventus, e ballano questi 2 punti adesso, e sarà fino alla fine, immagino, sempre così, perché i calendari di entrambe le squadre non sono proibitivi, più facile quello del Milan, anche perché è galvanizzato dal fattore campo, le gioca quasi tutte a San Siro d'ora in poi, e mentre la Juventus ha qualche trappola, a cominciare dalla Lazio di stasera in lotta per la Champions. Senti, il fattore campo però al Milan all'inizio di questa volata, cioè sabato scorso, non ha portato questo gran bene. Cosa significa? Che e forse c'è stata una conferma anche ieri sera, no? Cioè il Milan sta attraversando un momento così difficile che forse se la cava meglio col controgioco che non col gioco. Sì, diciamo Gigi, che oggettivamente va riconosciuto da Allegri questi grandi infortuni, insomma, che l'hanno costretto a schierare una squadra di assoluta emergenza. Sorrido noi a quella frase che noi giornalisti tiriamo spesso fuori: il massimo con il minimo sforzo, no? Il massimo risultato col massimo dei massimi sforzi di sera il Milan, perché veramente, come sottolineavi, ha tirato fuori i denti, la dentiera, tutto. Lo stesso Di Carlo gli ha riconosciuto doti provinciali di assoluto decoro. Io penso che il Milan, nonostante tutto, resti favorito, perché ha sempre Ibrahimovic, non dimentichiamolo mai, e poi è chiaro, lo scivolone con la Fiorentina, secondo me, è figlio anche dell'eliminazione della Champions e in generale di queste 10 partite in più rispetto alla Juventus, che pure, secondo me, ha espresso fin qui miglior calcio, ha fatto registrare il Milan. Senti, allora, i demeriti del Milan, visto appunto questa netta forbice che c'era all'inizio, che c'era sulla carta, i demeriti del Milan più o meno li abbiamo accennati, e direi che il fattore infortuni o Milan Lab, che dir si voglia, può essere quello principale. A fronte di questo devono però esserci stati dei grandi meriti da parte della Juventus. Tu come li metti in fila? Guarda, io sai che non sono un grande allenatorofilo, però devo dire che Antonio Conte ha lavorato molto molto bene, al di là di ogni aspettativa. Ha fatto scelte nette, persino rischiose, penso al Krasic che aveva avuto del Neri e al Krasic che non è stato più e che comunque Conte ha fatto subito fuori. Ecco, penso, ripeto, allo stesso Elia comprato a fior di milioni e escluso anche, insomma. Parallelamente anche una certa duttilità che non vuol dire incoerenza sul modulo. Noi l'avevamo presentato come un talebano del 4-2-4, viceversa ha cambiato spesso ed è per arrivare al 5-3-2 o 3-5-2. Guarda, lo apprezzo perché dice 5-3-2, adoro questi allenatori che dicono almeno 5-3-2 invece di 3-5-2, anche se poi magari proprio un 3-5-2 a volte, perché dipende dalle circostanze poi, però il fatto di essere minimalisti nel porgerlo è indubbiamente un pregio. Sì, la Juve deve giocare bene, tendenzialmente. Il Milan basta che giochi Ibrahimovic, questa è la differenza sostanziale fra le due squadre. Non scopro nulla di nuovo, ma penso anche di non dire nulla di clamorosamente sbagliato. No, questo è, sono dati oggettivi. Inizialmente, almeno parlo per me, nei primi mesi il reparto che più mi stupiva era la difesa, perché ricordavo il colabrodo dello scorso anno, soprattutto nella fase finale. passando adesso, dato per acquisito quel reparto, no, solidificato in questa maniera, sinceramente è un po' tutta la squadra a sorprendere in positivo, perché poi il numero di occasioni che la Juventus riesce a creare in una partita media è molto alto, eh? Certo, infatti anche nel centrocampo, vedi lì per esempio al centrocampo si può parlare di Pirlo, che secondo me è stata una scelta sbagliata da parte del Milan, non tanto in chiave nazionale, come sta tutto sommato dimostrando la classifica e l'andamento stesso del campionato, quanto a livello europeo, perché se tu passi da Pirlo a Van Bommel o Ambrosini fai una scelta muscolare e comunque fai una scelta nazionale, non europea. Certo, crea molto, anche a Palermo, contro un Palermo decimato come lo era contro il Milan, ha sofferto tanto per segnare. Ibra, ricorderai, in 20 minuti aveva risolto la faccenda. La pratica, certo. Manca l'uomo da 20 gol netti, mi ricorda la Juve dei primi anni 80. Quelli in cui i capi cannonieri, allora le squadre erano 16, le partite 30, erano Bredi con gol e Virdis con 9, che sì. Noi siamo amatri con 10. Certo, è vero. Sembra un revival di quell'epoca. Vediamo il collegamento con Roberto Beccantini. Roby, senti questo messaggio firmato Lori da Milano, che evidentemente è giovane. Compro la Gazzetta da una vita e ora vederla impreziosita al giovedì dalla nobile firma di Roberto Beccantini mi fa molto piacere. Hai scritto per qualche anno sulla Gazzetta, eh? Insomma, fa piacere anche a me che sentire di queste testimonianze. Si fa quello che si può oggi con tanta passione. No, ma certo, ma intendo dire che Lori evidentemente non leggeva ancora i quotidiani, perlomeno quelli sportivi, ai tempi in cui, prima di andare alla stampa. Negli anni 80. Dopo 10 anni di Totosport, 10 anni di Gazzetta. Anni di Gazzetta. Poi quanti di stampa? Dal 92 al 2010. Al 2010, quindi 18 lì, e adesso qualche comparsata. È un altro giornalismo quello di adesso, però certo, insomma, cerchiamo di restare fedeli. Comunque noi ti scoviamo ogni tanto sulla Gazzetta, ogni tanto sul Fatto Quotidiano, sappiamo come e dove trovarti, a parte i blog. Roberto, io sono abbastanza non so da che parte prendere questo Luis Enrique, lo confesso, vorrei che tu mi aiutassi, perché lo trovo un hidalgo, no? E come tale molto nobile negli atteggiamenti, nei comportamenti, persona serissima, non se la prende mai con gli arbitri, la colpa è sempre sua, questo mi piace molto. Però dopo 6 mesi che prendi sempre lo stesso tipo di gol, io sinceramente comincio a pensare a Zeman, che magari risparmiavi prendendo lui, no? Certo, Luis Enrique viene da una scuola molto diversa, diversissima dalla nostra, quasi opposta, non tanto quella spagnola ma quella del Barcellona addirittura, sì. Per cui sai, il possesso palla, il pressing alto, tutte queste formule palabratiche sono di casa, e nel nostro campionato viceversa bisogna stare molto attenti anche alle spalle, perché il contropiede è una specialità della casa, e in questo caso, scusami il gesticcio, lui ci cade sempre. Certo. Siamo di fronte a un piano nuovo al 100%, dal vertice societario allo staff tecnico a molti giocatori, però è chiaro che se tutto questo fosse stato a carico di una gestione tradizionale, non so come sarebbe andata a finire. Sicuro. Il nostro comune amico e maestro, almeno per quello che mi riguarda, Roberto Bortolotti, sostiene che un progetto come quello di Luis Enrique non può non partire da una grande coppia centrale difensiva, perché quel tipo di calcio è così pericoloso, così sbilanciato, così insidioso, e infatti ripensando a chi ha deciso di innovare e rischiare a quella maniera, no, gli stessi, cioè, no, non è un caso che Guardiola abbia la miglior difesa di Spagna da anni a questa parte. L'ho scritto. Sempre, noi parliamo sempre, e giustamente ci mancherebbe, dell'uomo che fa la differenza, Leo Messi, però nel costruire la casa hanno pensato bene anche alle cantine, al primo piano, hai capito, alle fondamenta, per cui la difesa del Barcellona è una signora difesa, mentre la difesa della Roma è poco, è vero che si è fatto male Burdisso e a tutti, però è chiaro che in Italia soprattutto avere una grande difesa ti porta a essere più competitivo spesso che non avere un grande attacco. Certo. Senti, è riproponibile, e così poi per oggi chiudiamo, è riproponibile nel nostro calcio un soggetto come Balotelli? Cioè, dopo 2 anni di esperienza che dovevano servirgli, perché io proverei a ricostruire un minimo l'humus da cui era partito, e cioè i cori razziali, le minacce, le cose brutte, no? Per cui il rapporto difficile poi con l'Inter, a un certo punto con Mourinho, precipitato, la maglia lanciata, calpestata, insomma tutte queste cose. Si diceva l'Inghilterra è il posto dove anche un soggetto così può passare più inosservato, dove non c'è nessun problema di razzismo e dove questo ragazzo avrà la possibilità di maturare alla faccia della... Esatto, sai, secondo me si può porre in questi termini. Noi abbiamo selvaggi sicuri e regole incerte. Gli inglesi hanno regole certe e selvaggi insicuri, capito? Per cui Balotelli, 4 giornate qui, 3 giornate là, al di là del lavoro ai fianchi dei tabloid, ha scoperto un mondo che non era quello italiano. Io rischierei, e già in questo condizionale e nel verbo soprattutto rischiare, si può capire la paura fianco, però insomma classe 1990, talento fisico a tutto, io rischierei, però anche lui deve venirci incontro, capito? Perché basta chiedersi cosa farà da grande, ma chiediamogli cosa voglia fare di grande almeno, perché non vorrei, Gigi, che lui si piacesse così. Se si piace così sono problemi anche per Prandelli, perché Questa è una bella riflessione, non vorrei che si piacesse così, questa è una riflessione ma è anche un sospetto forte, tutto sommato, mi pare. Roberto, grazie della compagnia che ci hai fatto. Grazie a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie di queste opinioni, ci risentiamo presto, vediamo come va. Vediamo come va, ripeto, questa volata, questa lunga volata. Avete sentita l'opinione di Roberto Beccantini su questo testa a testa da qui al 13 maggio. Adesso c'è ovviamente spazio, ci sarà ovviamente spazio per le vostre opinioni, i vostri interventi all'800 24 00 24, e nel frattempo ripassiamo un pochino i fondamentali di questa serata di campionato. Non dimentichiamo che dopo l'anticipo di ieri sera Chievo-Milan, in attesa del posticipo di domani sera, resistibile, Bologna-Cagliari, stasera si giocano 8 partite di campionato in cui ci sono in palio tutte e tre i traguardi, perché nella stessa partita a Torino c'è in programma primo e terzo posto, ma in parecchie altre si gioca per eventuale terzo posto e soprattutto per non retrocedere. Da dove cominciamo? Cominciamo da Conte che vive questa sua vigilia e poi sentiremo quella di Reia. Prima Antonio Conte. 3 domeniche fa abbiamo giocato ritrovandoci a -7 in classifica per 2 volte consecutive, quando abbiamo dovuto giocare contro l'Inter e contro la Fiorentina eravamo a -7, abbiamo giocato quando eravamo a -5, poi abbiamo giocato a Palermo con l'obbligo di vincere. Il discorso non cambia, bisogna giocare per vincere, ma è una cosa che stiamo facendo all'inizio anno e stiamo cercando di inculcare questa mentalità. Dire che arrivati a questo punto siamo avanti alle più rose prospettive, anche un piano mio da parte mia di crescita, no, della squadra, è inevitabile, perché ripeto, no, siamo partiti da molto molto molto molto lontano e ci ritroviamo a 7 giornate alla fine ad essere l'antagonista del Milan. Vero, così come Reia alla guida della Lazio, nonostante una serie di disavventure oggettive che gli sono capitate soprattutto in queste ultime giornate per ragioni di organico, compresa stasera, perché ha fuori non mi ricordo se l'intera difesa titolare o comunque una parte consistente di essa, Reia comunque attualmente è abbastanza saldo al terzo posto in classifica e comunque ha buone probabilità di centrare questo piazzamento UEFA, anche se evidentemente l'Udinese, che era più accreditata del rivale, non ha intenzione di mollare, e continueranno a provarci anche il Napoli. Continuerà a provarci anche il Napoli, mi sembra un po' più lontana la rimonta possibile di Roma e Inter. Sentiamo Reia sulla partita di stasera. Conte ha dato sicuramente un concetto e una mentalità particolare a questa squadra. Oltretutto ha inserito anche dei giocatori nuovi, ha cambiato filosofia e modo di stare in campo, aveva provato la squadra 3, se vi ricordate, inizialmente, adesso ho trovato questo assetto tattico. Mi meraviglia questa situazione del 3-5-2, no? Io lo facevo a Napoli, anni addietro mi dicevano che ero vecchio, no? Oramai sono un allenatore vecchio, di conseguenza avevo dei concetti vecchi, vedi, cioè lo fa Conte perché magari un giovane dicono che è bravo, no? Lui ha dato, direi, una filosofia a questa squadra molto importante. La rivendicazione era un modulo che poi, se parliamo di quel modulo, il primo ad imporre in Italia, se parliamo di primogeniture, il primo ad imporre in Italia fu Nevio Scala al Parma, e stiamo parlando del 1990-91, di quelle stagioni lì. È un modulo che poi fu molto molto praticato, poi invece un po' abbandonato, ogni tanto viene ripescato. Rea certamente lo propose a Napoli, e adesso Conte lo presenta a Torino, ma come ricordava giustamente prima Roberto Beccantini, in realtà come una delle risorse tattiche di moduli della squadra, non certamente come l'unica. E questa è una qualità in più della Juventus di quest'anno. Fabio da Ancona, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Volevo un suo parere in merito ad una esternazione, che un'opinione che ha espresso la scorsa settimana il presidente Agnelli, e che tra l'altro da un lato non mi ha sorpreso, però dall'altro non so come giudicarla. Cioè, quando ha fatto riferimento al fatto che diceva non so ancora dove metteremo eventualmente la terza stella. Allora io le chiedo, ma la Juventus non fa parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, la quale ha deciso, giusto o sbagliato che sia, alcuni anni fa, di togliere due scudetti? Allora voglio dire, se magari la vuole mettere all'interno dello stadio, come ha fatto con i 29 scudetti, ben faccia pure, perché ognuno a casa sua fa quello che vuole, però al di fuori mi sembra quantomeno così, nella minore delle ipotesi, una provocazione. Vorrei sapere cosa ne pensava. Grazie. Penso che sono è da un po' che sono curioso di vedere davvero come va a finire questa, perché non c'è dubbio che in questa vicenda Agnelli e la Juventus, ma insomma diciamo la Juventus di Agnelli, ha certamente il coraggio di fare una cosa che non dovrebbe fare, mentre la federazione non ha certamente il coraggio di fare una cosa che dovrebbe fare. E quindi effettivamente la sua domanda è prematura. La sua curiosità è prematura, ma infondata non lo è certamente, direi proprio di no. Poi adesso magari non vorrei slittare con la borsa, ma dopo c'è da sentire una cosa che è successa domenica nella tribuna dell'Olimpico in occasione di Lazio-Napoli, che riguarda dei colleghi di Radio Rai, perché ogni tanto qualcosina va anche sottolineato poi di episodi che, per carità, non chiamano in causa la cronaca nera, ma non ne arrivano poi nemmeno così lontani. Io sentirei ancora un Gattuso invece, velocemente, il suo commento dopo l'esordio, si può dire, no? Quasi dopo tanto tempo di ieri sera a Verona. Quando senti l'allenatore della Juve che è sempre al Pacino, che carica la squadra, è normale. Complimenti, perché anche a me mi ha fatto venire una grinta incredibile. Mi sono alzato dal divano schippato, no? Perché mi ha gasato pure a me. Ed è normale che quando ci sono tutti questi passaggi qua, è normale che dopo la Juve da tanti anni che non lotta per lo scudetto, ed è normale che, come dire, ce la sta mettendo tutti in campo, e ce la mette anche tutta fuori dal campo, ma fa parte del gioco, non mi dà fastidio. Chapeau alla Juve, a Conte e ai suoi giocatori. Un giorno Seedorf, un giorno Nesta, da una settimana che sento dire che Nesta, dopo Pirlo li vuole tutti, a me mi chiamano solo gli arabi. E questa era dedicata a questa caccia ai vecchi talenti che stando a qualche indiscrezione di stampa la Juventus avrebbe in animo di coltivare, no? E quindi di aggiungere a Pirlo altri tasselli, forse col permesso di Milan Club. Notizie da Barcellona sul conto di Abidali, presidente del Barça. Rosell informa che effettivamente ieri sera Eric Abidal è stato sottoposto a trapianto di fegato, e che sia lui che il donatore, che è un cugino del giocatore, presentano, con tutte le cautele del caso, una evoluzione positiva. Sono arrivate le prime mail di giornata, adesso vediamo di leggerne qualcuna, ma vi avevo anticipato prima di un caso accaduto domenica allo Stadio Olimpico in tribuna stampa, quando nel corso della radiocronaca di tutto il calcio, minuto per minuto, di Lazio-Napoli, un energumeno si è infiltrato nella postazione RAI centrando anche un'aggressione al telecronista Giulio Delfino. Allora, dato che abbiamo l'audio di questo episodio, tanto vale documentare così a distanza di giorni e quindi senza farla poi nemmeno particolarmente lunga, ma giusto per ricreare quell'atmosfera. No, ho letto stamattina che la Stock di Trieste delocalizza e se ne va a produrre in Repubblica Ceca, non so se era la Stock, non forse la vecchia Romagna. Insomma, era un altro brandy che era quel brandy che creava un'atmosfera. Ecco, era per dare un'idea dell'atmosfera che si vive nei nostri stadi. Sentiamo questo simpatico frammento. Il risultato che vede la Lazio condurre sul Napoli per 3-1 quando siamo arrivati al 43esimo della ripresa. Attacca dal cazzo! C'è un tifoso della Lazio che interviene in modo decisivo qui, vediamo in tribuna stampa ad attaccare qui in tribuna stampa noi, vediamo, cerchiamo gli steward in questa tribuna, ma non ce ne sono. Evidentemente qui dobbiamo sottolineare questo episodio, è davvero davvero triste, direi, considerato che è in grado di guastare anche una serata di festa. Eh sì, in effetti stanno chiedendo qui se c'è qualcuno in tribuna che possa intervenire, ma evidentemente non c'è traccia di questo, perché gli steward sono impegnati a vedere la partita, addirittura li vediamo anche saltare. Evviva, allegria, fallo laterale a favore della squadra biancoceleste che verrà battuto tra qualche istante. Beh, mi pare che quella viva allegria con cui questo collega conclude questa simpatica incursione, no, di un dei tanti guastatori folli che popolano gli stadi, mi sembra il modo migliore di chiuderla. La informo, scrive Luca Dariccione, che Milan Lab non esiste più da anni come struttura, si informi meglio e cambi il suo repertorio di battute sarcastiche. Caro Luca, Milan Lab è vivo e lotta insieme a noi e non più tardi di... Dunque oggi è martedì, sì, non più tardi 7 giorni fa il suo profeta ha dato enorme prova di sé, no? Mi pare riqualificando Pato dopo reduce dalla visita, dalla straordinaria visita in America, riqualificando Patolo e dandolo Pato, per buono per la partita del Camp Nou, ripeto, esattamente oggi è mercoledì, quindi 8 giorni fa, non 7. Mauro, chiamato da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, le faccio solo un paio di domande e poi ascolto la risposta per radio. A proposito di Milan Lab, volevo solamente comunque personalmente ringraziare Allegri, perché comunque non si lamenta mai del fatto che anche ieri aveva 3 titolari e ne mancavano 13 o 14, e mi sembra una cosa che facciano in pochi, quello di non lamentarsi mai. E poi a dire solo una cosa sulla Juve, che mi sembra un po' strano che dicano che comunque sono lì per caso, dopo che tutto quello che hanno steso, e anche la filosofia di dire che dobbiamo vincere a qualsiasi costo, tutti i costi, compreso quello di contattare quelli in scadenza di contratto, guarda caso del Milan, un mese prima che finisse il campionato, poi in questo momento soprattutto. Grazie a lei e buongiorno. Sì, non credo che gente come Nesta o come Seedorf, ammesso che poi questi contatti siano reali, ci siano già stati e non siano semplicemente le vere intenzioni, non credo che gente come Nesta o come Seedorf possa essere turbato da qualcosa di questo genere. No? Ieri sera Allegri è stato, secondo me, particolarmente bravo quando al quarto d'ora del secondo tempo si è infortunato Gattuso o ha esalato l'ultimo respiro disponibile in quel momento Gattuso, e anziché inserire subito Emanuelson o addirittura ricorrere alla sciagura Mexes, come gli era venuta la tentazione di fare in partite precedenti, visto che il Milan stava nettamente subendo e non da poco, ha inserito invece Sharawi. E mi sembra che al di là di quello che il ragazzino ha fatto in attacco, si sia subito sportato l'asse di manovra della partita, nel senso che il Milan ha cominciato a giocare un pochino più alto e a correre un po' meno rischi, anche perché nel frattempo il Chievo aveva speso molto e gli era già girata abbastanza storta di non essere riuscito a passare in vantaggio o come minimo a pareggiare, come minimo a pareggiare il gol di Muntari. Mario, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi, sempre un piacere. Mi rallascio all'ultima cosa che avete detto di Milan Lab e del suo santone principale. Io ho quasi 40 anni, seguo il Milan, sono tifoso del Milan da circa 25 e non ho memoria di una situazione infortuni così tragica in tutti questi 25 anni. Dura dall'inizio dell'anno e il 90% di questi infortuni, lasciando stare i casi a parte di Cassano e di Gattuso, il 90% di questi infortuni sono muscolari. Fatta questa considerazione, ne faccio altre due velocissime. Secondo me è il Milan che sta facendo un miracolo a essere lì, contando che anche l'impegno che ha avuto anche fino a una settimana fa l'impegno della Champions. E la seconda considerazione, più che altro una domanda che faccio a lei, è che secondo lei non sarebbe il caso di rivedere, di rivisitare tutto lo staff medico sanitario del Milan, contando anche i preparatori atletici e fisioterapisti, perché secondo me una situazione che dura dall'inizio dell'anno così, secondo me è da considerare un fallimento. Poi non so come la può vedere lei, non lo so, le faccio questa domanda. Non la vedo perché non me ne intendo, non ho nessuna nozione medica o scientifica, quindi non mi permetto di entrare nel merito. Conto, ma basta fare di conto sui numeri, sulle casistiche, su questo, e si arriva effettivamente a dei dati abbastanza impressionanti. Anche se il più impressionante di tutti, secondo me, è che il Milan disponga di 33 giocatori, cioè la rosa del Milan, grazie anche a questi infortuni, o meglio, per colpa anche di tutti questi infortuni, con gli ultimi arrivi di gennaio, la metà abbondante però dei quali si è spaccata subito, la metà abbondante, gli Strasser, Strasser, Merkel, questi subito rotti, la rosa attuale è di 33 giocatori. Allora, quando ogni tanto si dice che è un discorso che non riguarda soltanto il Milan, ma che potrebbe riguardare anche e direttamente il Milan, quando si dice, e quando dicono soprattutto i medici sportivi, non io, quelli che se ne intendono, quando dicono: se si tornasse a fare una vera preparazione estiva, se la smettessero di fare quelle ridicole amichevoli ad alto livello a fine luglio con 6 o 7 giorni di preparazione nelle gambe, se tutto tornasse a misura d'uomo e a misura di calciatore, certamente la salute dei giocatori ne guadagnerebbe. E allora a quel punto è facile aggiungere alla salute dei giocatori, è facile aggiungere alla salute delle casse sociali, perché non avresti più bisogno di 33 giocatori, no? Se ne infortunano meno, io credo che, dato che il calcio si è sempre giocato, ed era già calcio anche allora, non crediate, si è sempre giocato con 16-18 titolari e qualche ragazzino della primavera da inserire, della primavera o della De Martino, come si chiamava una volta, da inserire, beh, insomma, da lì a 33 il salto è discreto. Dario, Torino, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, vorrei fare un intervento che collega tre argomenti, uno del passato, uno del presente e uno del futuro, una cosa un po' particolare. Mi riferisco all'atteggiamento di Buffon dopo il gol di Muntari, a quello di ieri di Allegri in campo e a quello di Balotelli in ottica nazionale, mi spiego. Ieri Allegri a un minuto e mezzo dalla fine della partita, un pallone buttato fuori non volontariamente dai suoi giocatori per un rinvio, si fa male un giocatore del Chievo. Alla rimessa in gioco del Chievo Allegri dice al giocatore del Chievo: l'abbiamo buttata fuori apposta, restituiscicela. Questo perché lo dico? Perché durante una partita di calcio viene spesso a mancare la lucidità, quindi è difficile essere fra virgolette onesti in tutto e per tutto. Perché ho citato anche Balotelli e Buffon? Perché Buffon all'epoca disse che non avrebbe mai detto che sarebbe stato gol, ma perché durante la partita probabilmente nessun calciatore lo avrebbe fatto, anche se dopo sono stati tutti bravi a dire il contrario. Per quanto riguarda Balotelli, l'infortunio che ha avuto, chiamiamolo infortunio, contro l'Arsenal, all'89esimo, una partita che stai perdendo, secondo me c'entra poco con l'etica, cioè è un classico fallo di frustrazione. gravissimo, per carità, che però non può secondo me inficiare la convocazione in nazionale, perché sono cose che sono dettate dal momento, l'adrenalina. Dario, sono d'accordo sulle prime due, su entrambe le prime due osservazioni molto intelligenti che ha fatto. Questa non la condivido, nel senso che sì, può anche essere il fallo di frustrazione, quello dell'89esimo, ma se hai cercato di spaccare una gamba uno al 12esimo o 19esimo che fosse, e ti è andata bene perché c'era un arbitro incapace, se dopo ti sei già fatto ammonire per un'altra scarpata gratuita ad un avversario, non hai più diritto, alla terza non hai più diritto, no? Cioè, già non avevi diritto alla seconda, perché dovevi solo segnarti con la sinistra che l'arbitro non ti ha cacciato dal campo subito, ma certamente non hai più diritto né alla seconda né alla terza, se scappa anche la terza mi spiace, ma sei veramente un disadattato del calcio, un disadattato in quel momento, ovviamente non è un giudizio assoluto, è un giudizio relativo a certi comportamenti che sinceramente possono passare una volta, possono passare due. Se hanno fatto perdere definitivamente la pazienza a suo padre putativo, cioè Roberto Mancini, mi pare che qualcosina possa voler dire questo. Sentiamo l'11 aprile di Nicola Filippone. Sembra ieri. 11 aprile 2001, a Coffs Harbour, l'Australia batte per 31-0 le Samoa americane in un incontro valido per le qualificazioni ai mondiali del 2002. Si tratta del successo con il margine più ampio di sempre in ambito internazionale. Contestualmente viene stabilito anche il record di reti per un singolo marcatore, l'attaccante Archie Thompson, a segno per 13 volte. Curiosamente, il primato precedente l'aveva stabilito la stessa Australia solo 48 ore prima, battendo Tonga 22-0. Una mail firmata Andrea Ruggeri da Milano. Trovo penoso, umiliante, inaccettabile che dei professionisti si prestino ad andare sotto una curva a capochino e a subire il sermoncino tutto cuore e coglioni degli ultra. Gente questa che non ha alcun ruolo positivo nel calcio, benché indirettamente e tacitamente si continui a riconoscerglielo. Assolutamente pazzesco che non si sia levata una sola voce di sdegno da parte della società. Solo per questo meriterebbero la Serie B. Vabbè, credo che i genovani potrebbero, su quest'ultima frase, potrebbero avere qualcosa da eccepire. È vero però che quello di domenica Novara, di sabato a Novara, è stato veramente uno dei tanti pessimi episodi appunto che confermano una volta di più la prevalenza dell'ultra, no? in tutti i modi, in tutte le sedi, in tutti gli atteggiamenti e nella... Vabbè. Raffaele ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno Antonio Garanzini, è un piacere. Ascolti, io volevo intervenire sul discorso di ieri sera dopo la partita con il Chievo. Bergamo e Sky ha detto ad Allegri secondo lui aveva gestito bene questa fase del campionato, della stagione, rispetto all'anno scorso dove era stato in grado di riuscire a rimanere in testa anche con l'Inter alle spalle, eccetera. E secondo il mio punto di vista la semifinale con la Coppa Italia cioè, è stata gestita male, al di là di essere giocata in un periodo in cui c'erano questi impegni per il Milan, ma secondo me ci sono stati degli infortuni che poi hanno creato una conseguenza di problematiche. Volevo sapere un po', ecco, il suo parere, se era il caso di giocare la Coppa Italia prima, la semifinale, visto che poi la finale è in maggio, evitando i periodi in cui si riprendono le coppe, e come ha gestito Allegri questo periodo, insomma, secondo lei? Ma io sinceramente mi sembra un... trovo il calcio che già ci offre tante di quelle date, no? Cioè, ci obbliga, ci costringe a tante di quelle date che non capisco perché ancora andare a stroggarci su, cioè andare a chiedere se quelle date vanno bene o se ce ne volevano altre. Io me la caverei così con una mezza battuta, cioè l'errore non è stato tanto di calendario, l'errore è stato di dire, e qualcuno lo ha detto al Milan, al vertice, qualcuno ha detto alla vigilia di quella serie di impegni potrebbe essere l'anno del triplete, e quello è, e quella è la tomba di qualsiasi cosa. Fateci caso, io quelli che appena lo nominano prima, e tanto se riescono a salvarne uno di trofei, che è quello che il Milan sta provando a fare adesso, ma non so con quante probabilità di successo. Davide ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Sì, buon pomeriggio Granzini. Non volevo essere ripetitivo, volevo parlare un attimino del Milan e di Allegri, volevo fare una riflessione che forse non è ancora stata fatta. Secondo me, io sono tifoso, seguo da diversi anni il Milan, e con Allegri mi pareva di aver notato un aumento di incidenza di infortuni, soprattutto dopo la pausa natalizia. Non so se è un fatto di preparazione che il mister ha portato, oppure se proprio dopo la pausa natalizia, quindi quella preparazione, quella mini preparazione che viene fatta in quel periodo, insomma, porta poi anche delle complicazioni atletiche, perché anche l'anno scorso mi ricordo che l'impegno di Champions con il Tottenham era stato affrontato con una squadra molto rimaneggiata, e quindi al di là di Milan Lab, che insomma sta diventando anche un boomerang mediatico sicuramente, forse anche c'è un aspetto atletico che Allegri con i suoi allenamenti, insomma, legittimi secondo il suo punto di vista, può aver portato, ecco, in questo senso. Mi sentivo di dire questo. Non lo so, credo, non lo so, non ho la minima idea, tendenzialmente sarei per escluderlo, però certo tutto può sempre darsi. No, ripeto, tanto qua ciascuno ha sempre la sua ricetta, no? E quindi può anche darsi che questa sia a sua volta valida, cioè abbia un fondamento. Io non lo credo, ecco, semplicemente questo, però non ho alcun elemento per esprimermi né in un senso né nell'altro. Al massimo le posso proporre quello che Allegri ha detto ieri sera dopo questo scampato pericolo veronese. Sono contento soprattutto perché c'erano state fatte delle critiche, però un po' troppo eccessive, e credo che sia da un periodo a questa parte che non aspettavano che il Milan cadesse. Fortunatamente siamo caduti per la gioia di tanti, ma sfortunatamente ci siamo rialzati, che sembrava che anche quando avevamo 4 punti di vantaggio c'era una campagna mediatica in attesa della nostra sconfitta. E invece i ragazzi anche stasera hanno dimostrato di tenere perlomeno vivo il campionato, visto che dopo la sconfitta con la Fiorentina bisognava fare dei funerali, bisognava fare dei processi. Io invece credo che per fare il funerale ci voglia ancora del tempo. Franco ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, senta, Granzini, io chiamo, sono stato a Trieste a vedere Cagliari Inter. Due cose che mi hanno lasciato meravigliato: io ho portato il mio bambino a vedere la partita di 8 anni, e per entrare ho dovuto fare non salti mortali, per la storia del tessere del tifoso, per mille altri motivi che non sto qui a elencare. Che per un bambino di 8 anni cosa dovrebbe avere secondo lei, Garanzini? Prima domanda. La seconda, vorrei una sua considerazione sull'espulsione di Piniglia, che per me, che seguo abbastanza il calcio, mi risulta unica nel caso, perché non mi è mai successo di vedere che un calciatore, perché va a esultare senza togliersi la maglia oltretutto, venga espulso. No, credo ci sia una norma, mi pare aver letto che c'è una norma che tu non ti puoi arrampicare mi verrebbe a dire palizzate, non so come si chiamano quegli affari lì, comunque su queste barriere che dividono il campo dai cosiddetti spalti non ci si può arrampicare, c'è una norma precisa. Poi questa norma può essere, certe volte viene, insomma, c'è un minimo più di tolleranza, certe volte ce n'è meno. Guida, che era l'arbitro, mi pare, di questa partita, l'ha applicata in modo severo. Non si è inventato nulla comunque, non ha fatto nulla di gratuito, ha fatto qualcosa di severo, magari di eccessivo. Dal mio punto di vista no, dal mio punto di vista, ma questa è una storia che risale a molti molti anni indietro. Cioè la maglia la sollevo un tantino, ti faccio solo vedere un pezzetto di pelle, faccio vedere solo la scritta che ho sotto, la tolgo del tutto, me la sfilo fino alla testa, ma poi però ti frego perché non me la fila del tutto. Ma cioè, robe da manicomio spinto, secondo me, e quindi esultanze eccessive, cartellino. Se uno è già ammonito prima e si becca un secondo cartellino giallo per un'esultanza eccessiva, secondo me può fare compagnia a Balotelli, dal mio punto di vista. Un calciatore deve essere ammonito se, a giudizio dell'arbitro, fa gesti che sono provocatori o derisori, o si arrampica sulla rete di recinzione per festeggiare la segnatura di un gol, o si toglie la maglia o si copre la testa con la maglia. Queste sono le tre casistiche, no, di questa norma, che nel frattempo Franco Piantanina mi ha fornito a tempo di record sul display. Come vede, in una di queste casistiche Pignini è caduto e l'arbitro guida ha avuto ragione di dargli il secondo cartellino. C'è un'altra regola famosa che riguarda gli arbitri, che è quella del buon senso, che è quella di voltare un attimo la testa dall'altra parte quando un giocatore sta facendo una fesseria che non nuoce a nessuno, però non tutti si sentono di applicarla e secondo me non hanno nemmeno torto. Massimiliano Varese, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo dare la mia testimonianza su Milan Lab. Io sono un autotrasportatore e ho portato a Milanello, dove si allena il Milan, sul campo proprio, sono entrato al dosso del campo, dei pali che vanno messi intorno al campo, sopra poi ci si mette un sensore, qualcosa che legge le pulsazioni degli atleti che si allenano, quelle cose lì, insomma tutti i loro calcoli che si fanno, no? E adesso vi voglio spiegare come mai da lì il Milan ha cominciato a avere tutti gli infortuni, no? Perché io ero lì a scaricare, l'occasione era troppo golosa, ho abbassato la patta e ho fatto la pipì sul campo del Milan. Da buon interista, grazie, non ce l'ho fatta. Ha aperto l'impermeabile prima a Milanello e poi ha pensato bene di aprirlo anche qua per coerenza, no? Ma è una testimonianza interessante. Dopo 5 secondi le garantisco che avrei scommesso qualsiasi cifra che lei avrebbe raccontato una sciocchezza, e mi fermo così. Ma era impossibile, valeva alla pari, nel senso che non era quotata una scommessa del genere. Purtroppo ogni tanto anche i filtri severi al centralino di Mamma Rosa non sono sufficienti a tenere lontano qualche deficiente di passaggio. Grazie a Franco Piantanida in redazione, grazie a Filippo Aureggi in regia. Appuntamento a domani.